paraculo, cazzo. Vabbè, non ce ne frega niente la portante. Se diminuisce un pochettino la passiamo. No, no, Ho sbagliato, non lo so. Che non sia fastidioso, a me non mi piace che, perché quell'eco di queste radio non sono belli. Senza sentire un po' amplificata senza avere quel eco che ripetami, non mi piace su questa radio qua, capito Luca? Se ti accorgi che sta ripetendo, io cerco, sto cercando un riferimento di raccordazzurri, metterlo giù e lasciarlo fermo, capito? No, per me va bene lui, ottima radio, forte, bella, la parola di eco va bene. Va bene, questo forse fischia, guarda, non va bene lo stesso così, assorbe un parecchio però. Ma sta fischiando, negativo. E se abbasso questo succede qualcosa? Ecco, se abbassa sarà la modulazione, cambio. Non si cambia niente. Ah, c'è il doppio modulatore, aspetta un attimino, no? Così più basso è Luca, o cambia qualcosa così. Bisogna avere il radio. Non è, ho capito, no. Ho staccato questo modulatore adesso, guarda a vedere com'è. Sappiamo la pezzi. Se attacco il modulatore è sempre lo stesso ugualmente. Ma si conferma. Ma Roger, allora no, lo lasciamo così. No, ho capito quello di dietro cosa serve. Cambio, forse. No. O lo giro, lo rifai sempre così. Vabbè. È perfetta così, Luca riesce. No, va bene. Fai il passaggio. Via Luca, però se voglio togliere l'eco del tutto, guarda, se lo giro così l'ho tolto l'eco, Luca. No, c'è sempre, un po' c'è però. Questo pochettino va bene che la metterlo così a zero, vero? C'è sempre. Va bene, lo lascio così allora. Campo, va bene. Positivo, perfetto. Questo però ho capito, NB, l'ho lasciato NB. NB, off, cosa vuol dire? NB è un filtro, antidisturbo, ricezione. Bravo, off, perfetto. Così, no, così aspetto il coso. E lo lascio così, là. Va bene, là. Perfetto, Lucaria. Sì, va benissimo lui. Ci può fare anche di meglio, solo che bisogna saperla regolare. Posso provare a girare un puntino questo, guarda Luca. Ho girato appena un altro tacchettino, l'altra di sotto, non so che cosa serva. Che cosa ha cambiato girando quella di sotto, Luca? Niente. Non aumenta, ecco, non fa nulla questo, guarda un po', se giro così cosa succede, Luca? Non mi pare faccia una voce grossa. Sono rallenta, lo devi mettere normale, nel veloce, nel lento, normale. Questo lo rallenta in pratica, Luca. E si conferma. Taccio compreso, mi devo girare in occhio. Giro, gira, hola. Mi lo vedi? Eccolo qua. Perfetto, così è troppo forte nel mare. Così, non lo so, io sto provando, Luca. Vedi così, è troppo ripetente. Via. E così abbassa. Ma va bene così o devo abbassare così? No, io siamo una regolazione, sto facendo per trovare un po' la via di mezzo, veramente. Per me anche così può andare. E così? Prova a metterlo magari un tantino più veloce e aumenti un po' di eco. Guarda a vedere che ho girato appena. Anche così può andare, ottima. Va bene così, non è che c'è qualcosa che rispetta troppo, no? Che poi diventa fastidioso, Luca. Prova a salire su un attimo. Salire su dove? Qua, questo canale qua normale, 8 normale. Non tanto il giro, ma come funziona, cosa devo fare, qualcosa l'ho imparata, perché non è che sia difficile, ma soprattutto per essere sicuro al 100%, uscire da soli, può fare almeno 2 settimane di affiancamento. Vabbè, punto. D'accordo, vai, riprendi le robe che sto finendo il cenà. E lui quello cosa stai facendo? Stavo facendo nulla, niente roba. L'unica cosa è solo il problema, che non c'ho un fondo, ecco, come fai? Dimmelo tu, non ti costi. Non lo fa. La mia è sempre quella. E poi, come hai detto tu stasera, se mi danno come 50 accusi, 50 pacchi, proprio per essere insomma le prime armi io, perché sono là uno che aspetto sono qua in 6 ore, 3 fa, 7 ore. Se ne dà a me 50 pacchi, io ne finisco alle 8, ma in realtà non mi arrivo 30. Le ore 50 consegne. Non dite, oggi lui dico già, non aspetto 50 consegne e fanno un paio d'ore. Vado lì, vado da tu, va. Non ne parliamo qua, non interessa a nessuno di capire tu. Già ci sentiamo di persona, ne parliamo di persona. Riprendi, vabbè. Vai tu, lui. Sto collegando un attimino, riprendo subito, sto provando a collegare le cuffie a sentirmi come sta uscendo. Riprendo subito, Lui. Devo dire una cosa, a me sinceramente piace più l'altra, il cos'è, quello Midian, il cos'è, boh, non lo so, come radio mi piace più l'altra. È positivo, e beh, anche io lo confermo, l'altra è bella come radio, non solo dico che è bella, ma adesso mi sto mettendo le cuffie ad ascoltare come sta facendo questa qua, sentirmela io, dai. Allora, senti, però a me piace più l'altra, vai. E poi c'è un'altra cosa qua, perché sicuramente, come hai detto, dalle telefonate, chi te le paga le chiamate? Sono c'è scritto, come cazzo fai? Tu fate cose qua, non è... Diciamo, come lavoro è bello, perché giri, fai, non ti rompe le palle a nessuno, ti fai le tue consegne, prima fai il migliore... sono tante cose qua, purtroppo sì. Poi ho saputo anche, vabbè, chissà, no? Ho saputo, però ci sono per essere sicuri, se fai danno paghi, ok, sono d'accordo, però mi hanno avvisato e magari così una persona sta più attento, cerca di dare il massimo, ecco, guidando. È un casino qua. Infatti diciamo, un responsabile mi ha dato un numero, ci stavo parlando, stavo spiegando un po' la situazione e io stavo spiegando per vedere un po' se gli affiancamenti se li pagavano. Chi mi dice di no, ma signora c'era una tipa, non so chi era, Poi sono entrato da questo qua, responsabile, lui mi ha detto no, so, forse sì, e mi ha dato il numero di questo, anzi lo dovrei chiamare a questo, proprio quello che comanda, per vedere un po' se gli affiancamenti li paga. Non dico gli altri tutti, cioè fare tutta la giornata, ma non ha mai fatto la devono dare. Mi devi chiamare Alessandro. Ma so come si chiama, bu? Già ne parliamo di persona, lui. Se posso fare qualcosa, vediamo di sbloccare la situazione, ne parliamo di persona. Vabbè, perché un lavoro non è brutto, poi c'è il punto del nuovo, tutto. Ma pure non c'è problema. Guarda. Oh, ma com'è se siete sull'8, lui? Che la portate sul 10? Cazzo qua, ci ha seguito, Perché lui ci stava facendo le prove, e tutti uno col bizzo, cazzo qua, una rottura di coglioni, Ha detto lui vai sotto, pure sotto ti metteva la portante. E poi alla fine, cazzo, ma proprio, guarda, mi ha rotto le balle, veramente. Ci stiamo disturbando, perché bisogna rompere le balle? Perché lui l'ha dichiarato. Lo sai che l'ha dichiarato per iscritto, no? Che ci rompe le palle, quindi lasciamo le domande. Non chi lo può fare che lo faccia lui, ma tutti lì. No, guarda, io non c'ho nessuna voglia, non me la fotti nulla, guarda. Vi ascolto volentieri, adesso mi guardo la televisione, se più tardi c'è qualcuno mi faccio due chiacchiere, se no spengo tutto il mio corpo, dai. Ci sentiamo signori, intanto piano piano spariamo tutti, perché ieri mi ha veramente girato i coglioni, nel vero senso la parola, perché non si può continuare così. Quando uno entra alla radio entra a rilassarsi e dice imbecille giboni, non a disturbare a noi che non ci fa niente, ma a disturbare quelle poche persone che sono rimaste e che vogliono parlare, quindi va bene così, dai signori vi saluto, a più tardi se coincide, se no a domani, ciao Luigi riprendi. Ma devo riconservare la radio allora? pare che ci mette in piazza, a me fa vedere i livelli, buon commentarista. E chi è questo? Chi è? Qualche pezzo di cazzo vicino a casa tua, deve essere sicuramente. Addirittura? No, ma adesso non ne ho messo qua, non è che la metterci tu. Non è che lo passi, te lo mangi. No, questa roba non è banale a Luigi. Sì, ma eravamo qua, trovo qua, sì, perché ho fatto il break, mi ha chiesto un po' di controlli. Infatti io non mi passiamo al 10, cioè, però passiamo, rimaniamo qua così non disturbiamo nessuno, facciamo le cose che vogliamo. E intanto detto, lui va sotto, anche lui ci ha seguito. Ciao lui, scusate se sono entrato così. Giusto per un saluto. Vabbè, riprendete. Ma ciao, non ho capito chi era, ma Carino tu. No, Fino. Positivo, ciao Fino. Allora, in effetti mi sto ascoltando in cucchia, non mi piace venuto a radio, ha ragione Claudio. Non mi piace questa cosa, questa modulazione così, no. No, c'è tanta questa cosa, vedi? Ne manco pure. No, mi piace più di tanto questa modulazione, la sento troppo vibrare, capito? Troppo, non lo so. Non lo so. Oh, Luca. Vabbè, Beato, vabbè, mi hanno chiamato avanti, se mai ci sentiamo dopo. Ciao Luigi, ciao Tino e ciao Claudio, dai, ci sentiamo avanti dopo. Ciao Roberto, dopo ciao, vai. Leia, ciao Roberto, ciao, Claudio. E comunque lui, dai, quella lì, non mi ricordo male, Palmiro l'aveva modificata, ti ricordi? No, ha cambiato, c'è solo la scheda ecco in quella di Palmiro, e boh. E basta, non c'è altro. I finali sono i suoi normali e niente, qua io non ne cambio camera eco, perché se faccio una camera eco la metto nell'altra radio, che non lo faccio neanche perché la lascio così come l'altra. E questa rimarrà così lo stesso, capito? Adesso me la tengo sino che non mi stufo, quando mi stufo faccio fuori anche questa. Ma che bella come radio, eh! Ma sicuramente si può regolare bene, solo che devi stare un po', ecco. Devi stare un po' lì, così come va. È un casino, sembra facile, ma non è facile. Non lo so, sono con le cuffie che io mi ascolto così, mi sto ascoltando e mi sembra che lo sento come vibrare, non lo so, e se ti pongo la parità così la cosa aumenta il cambio. Fa cambio. Oh, se avvicino il microfono cambia anche la modulazione, giusto? Sì, prova qualche battuta facile andare. L'ho abbassato, mi sembra. E adesso li sto aumentando. Adesso sto scrollando tutti. Hola, Lucariello di Gigi Vulcano, che ti fa chiamata da Porto Torre Scappa. Sembra un po' fatturina, vero Tino? No, per me no. Aiuti, ti buscano, vai a curicarti che domani ti devi andare a testa per andare a lavorare, dai. Nanna. Dai, da bravo Natalino. Non fare incavolare a Gigino Vulcano, che sembra parlando dal Vaticano. Figlio dal Vaticano, dall'Oltretomba, mi sembra, quella radio. Non è a Radio 2, ragazzi. Hai ragione, a Luca piace, però a me non mi piace assai qualcosa, non lo so, io non mi... Boh, non lo so, ditemi voi, se va bene la lasciamo, se va male la cambiamo, dipende come parli con questo microfono, mi sono accorto di una cosa, se parlo così, vedi, così tende a saturare, parli così è molto migliore, così ancora va bene lo stesso, comunque la modulazione migliore forse è questa qua. Scusate, dai, ciao. Non mi disturbo, girare che devo fare la carica, dai. Vai, ciao, diciamo una carica, dai. Ah, più tardi, se no, alla prossimina. Vai, Natale. Cara, ciao, Tino. Sono tutto, va. Alle prossime. Dai, ma tu stai venendo. Ora attacchiamo l'altra radio, dai. Ha giù compreso, dai. A voi, da voi. sì, mette sul posto, e c'è una cosa, vedi, farete così, c'è una cosa, una popolazione un po', non so, sembra dentro una tomba, guarda. Però mi è venuto lì il coso di fare una prova, voglio fare una prova con l'altro microfono, dall'altra parte. Mettere quello che ti ho fatto io perché non va bene. No, no, sto mettendo il mio. Ah, tu l'hai già provato l'altro? Io sto provando quello mio, quello del Mitra, a vedere cosa dici. Non so come, ma hai già fatto delle prove tu hai, Claudio? Nel mio sì, non va bene l'attacco, ti ripeto. Il verso l'attacco del Mitra è lui. Guarda a vedere, mi pare che precisa a me, allora che funziona. Ah, boh, quello non funzionava, dall'altra parte non funzionava. Messo il mio, quello dell'apparato, dell'altro apparato, mi pare più squillante, dico. È più bello il suo microfono, è più bello, anche quello mio è così, è più bello, è più grossa la modulazione. Questo è troppo, c'ha troppi toni acuti e boh. Gli sta andando bene l'altro apparato, va bene, è vero, ok. E io ho capito, va, mi siete andato bene, ho fatto tutto. Grazie a quello suo lui, che va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, facciamo l'uso io allora, se invece lasciare questo, lasciamo questo qua. Io vabbè, lascia, bravo, lui lascia quello. Va bene, dai, attacchiamo l'altra, cioè, facciamo girare l'altra. Quella radio lì bisogna ammetterle col microfono che c'ho io. E tu lo provi, col pane che tra che c'ho io, vedi come dici. Ah, questa qua sta dicendo. Vabbè, faremo una prova. Io. Adesso domenica mattina. Domenica mattina ci vieni da coso? Se loro vanno a pescare, ci vieni da Passo a Trento, ci vieni da Torino. Qui. Stiamo mollando l'antenna per togliere dalla trappa, non ho capito cosa sto dicendo, crack. Domenica mattina se loro vanno a pescare, ci vieni da Torino. Ma Ugini? Sì. Andiamoci, se mi avvicinate da Torino per me sembra che deve andare per qualche cosa, va bene, non sono problemi, Claudio. Possiamo avvicinarci. E passo a Trento, presto. Tanto lo impiego a Trento, lo prendo col piantone per Ricca e poi devo vedere un'altra cosa. Positivo, va bene, ci sentiamo sabato, là. Anche così ci mettiamo d'accordo. Là. Lui sabato mattina non c'è, se no l'avevo mandato sabato mattina. C'è sabato sera, ma io sabato sera non ci siamo, sono pure. Andiamo domenica mattina facciamo un salto. Poi lo telefono prima, là. Positivo, là. Faccio un attimo di bianco che attacco questa e mi attacco l'altra radio, dai, riprendi Luca. Lui sta ascoltando, lui ci rimando qua. Deve essere Natalice, sì. Va bene, sta attacco l'altra radio, poi qualcuno si farà avanti. Mamma mia, adesso la cazzo, diventa una guba a barica. Buonasera. Ti porti appresso un fruscio e sei molto metallico. Ti porti appresso un fruscio e sei molto metallico. Oh, Alessà, c'è Salvatore, tuo padre, a fianco? Oh, Salvatore. Allora, le misure, non so se hai chiamato Albino, comunque le misure sono 50, 20... di larghezza e di altezza 14, e a 50 di lunghezza, 20 di larghezza e 14 di altezza. E ma te si misuri mi vai? Ma non so che cosa vuoi, che cosa vuoi intendere tu, sai? Parlo di radio, io ho una radio che è 50 per 20 per 14. È una cosa del genere, che lui si fa delle misure per sapere per il trattore, dai. E io gli ho dato le misure, mi sono informato quanto era grande questa cosa, gli ho dato dicendo. Non vedo male che fai del trattore, ma questa è un'altra cosa che un'altra cosa che vuole fare Salvatore, se lo vuole fare. Ah, tu, Salvatore sta facendo le cose in grande. Non ti ascolto bene, Salvatore. Santiago 7, molto frusciato. La telecamera la radio, dai. Non ti ascolto bene, Salvatore, cosa hai combinato? Non lo so, qualcosa c'è che non va. Sei basso qua. Tuo segnale è 9, sei 7, tutto frusciato. Sai c'è un fischio, guarda, ma c'è qualche cosa acceso, o controlla bene gli attacchi delle DPL, o come si chiama, attaccati alla rosmetro, sai, c'è un rosmetro tu appresso, cosa che c'hai, perché ti sta un po' fischiando, capito, Sabato? Io non ti ascolto più, Sono basso, in mezzo al QRM. No, non è telefono, Salvatore, non è telefono quello, c'è un fischio e ti sei abbassato di radio, hai capito? Non so se tu mi ascolti lì, C'è un fischio che ti stai portando dietro quando schiacci la portante. Io lo metto a poco fa, io, vabbè dai, rimango in ascolto io. Ehia. E sicuramente non c'è la massa, in realtà, quattro la massa, dopo. Ho capito cosa c'era? Ma sei sempre, non so come puoi dire basso, prova a vedere. Ah, allora è tutto chiaro, Sabato, e passava a dirlo. Passava a dirlo, adesso è tutto chiaro, capito? Non è il tuo segnale quello lì, capito? Io pensavo che eri a casa. Mia me! E adesso ho capito tutto, dai. Ho capito, dai. Quando arrivi a casa la cosa si risolve, dai. Niente, chi è entrato? Daniele, sei tu? Presente, buonasera. Ciao Daniele, ciao, ben ascoltato. Salutori. Salvatore di Agricolo, stai gridando e non gridi troppo tu, devi essere più rilassato quando vuoi. Capito, Salvatore l'Agricolo? Ti ho detto rilassa, devi essere più rilassato, se tu gridi così è spesso la modulazione, cerca di fare una modulazione un po' più difesa, più lento e leggermente diversa. E è più lento, tu se moduli lento, calmo, tranquillo, esci benissimo, capito? Se tu poi vai molto veloce, la modulazione si va un po' non si riesce, e poi ci gridi anche sopra e spesso ancora. Sa, sei tu sempre, sì. E adesso non sta fischiando, ma c'è troppo eco, Alessandro, troppo per... è troppo eco, dai. Mi squilla anche il telefono, un po' di meno l'eco, così che controllo chi è. Oh, bianco per me, già torno subito. Oh, Alessandro, chiedo al telefono. Ti ascolto. Arrivi, ma prima c'è focante, c'avevi un fischio, capito? Un fischio non so come mai. Positivo, ce la ascoltiamo più tardi. E no, aspetta che io tra un po' come ritiro culo. Ya, ti ho detto di non gridare, se no ti pesto le dita. Allora tu devi mettere Salvatore Birillo, capito Birillo? Salvatore Birillo. Giusto Luca? Bravo, sei bravo lui. I cognomi non si dicono. Non metti Salvatore Birillo. Se devi memorizzare il numero del telefono di Salvatore, Salvatore l'Agricolo, anche se io so il suo cognome, bisogna mettere l'Agricolo. È facile. Salvatore l'Agricolo, aia. Allora mi attacco l'altro, un po' che 10 minuti mi attacco l'altro e stacco questo e mi attacco l'altro. Con questo ci abbiamo modulato abbastanza. Ma è lui, ultimo? A Sant'Antioco, è fatto un casino che mangiano in Cagliari, uia, sul 45, ma manco maricani, uia, quindi modulata oggi, mamma mia. Stamattina ho sentito alle 7, non so dove vedo, che stavi chiamando a... Oh, sono entrato. Stavi chiamando a Giovanni originale e hai detto Giovanni non sei tu, sei troppo basso. Via, è stata in lira. A Vidalba. A Vidalba era. E io ero quasi per arrivare a Campeda sulla sopra di Bolottana lì, sopra Foresta Burgos, capito? Te ti sentivo, a lui no. Era Vidalba lui era, capito? Sotto Vidalba lì era. Allora a te ti sentivo benissimo. Ah, qualcuno. Questi a lui fa niente. Poi sentivo qualcun altro, ma basso basso, non so chi era. Perché sentivo QRM0. Il collega mio che era insieme a me, c'era un altro collega che eravamo insieme, ci ha visto sull'altro, uno dietro l'altro, l'ha visto. Sono quanti fatteci, con dei fatti. Il collega mio? No, tu, sei molto lì vicino. Non lo so, lo meno, forse l'ho staccato lì, capito, l'ho staccato. Però ci sono sempre quei, non lo so, forse quei fatti dell'apparato ci sono, dai. Perché sono troppo vicino, non so se ti capisce. No, no, quando è vicino quella radio mia si capisce, capito, si capisce abbastanza bene. Il bello è fare le radio belle e potenti e capirsi anche quando sei molto vicino, attaccato, capito? Ehi, ehi, cappa, cappa. Ma dipende anche lui, dipende, perché ho notato che uno si sceso giù da formatore l'altra volta, che stai muovendo la macchina tua, non si capiva niente la macchina di Franco. Ho sceso io in vettura. E che cosa stai muovendo, non mi ricordo con chi. Io non ti capisco. Se viaggiate a quella distanza lì, magari più lontani. Allora, il discorso è uno è l'impianto che c'ho in camion io, uno è quello che c'ho in vettura, capito? In vettura ha tutto un conto, l'impianto che c'ho in camion è tutto diverso, capito? Bisogna che io mi metta a fianco proprio, se sono a fianco giustamente nomino anche con una radio normale, se ti dà fastidio non capisci nulla. Se tu ti metti a fianco con un baracchino normale, a fianco all'altro, non capisci nulla lo stesso, Ma quanta distanza è però? No, io forse sei attaccato ancora dietro, uno dietro l'altro e non lo senti sempre pulito, forte ma pulito. Yeah. Capito, la 44 cosa? Magno. No, ti ho detto 50, 20, 14. E 500 550, una cosa del genere. Provato lui sulla vettura, capito? Sulla vettura, però con la batteria della vettura non ce la faceva alimentare, capito? Ce la sentiamo con due ventoline. L'ho visto perché l'ho visto, capito? Io l'ho visto montato quando era montato ce l'aveva montato sotto e tutto l'impianto che c'aveva, tutta la procedura che c'aveva sotto, visto, io capisco. Se ti ascolto bene a te, è positivo. Comunque, questo è il magno, E lo sto dicendo, differente dal tuo, questo è il magno, capito? Positivo, no, stavo dicendo, questo che sto parlando adesso è il magno, che sto modulando, poi ne volevo provare l'altro, volevo attaccare la boccante, non sono riuscito ancora ad attaccarlo, prova l'attacco. Quindi Luca che attacco l'altro apparato e attacchiamo questo è un congo, va bene, va, tutto a posto, tutto roccia. Gappa Rogero, no, non lo so perché. No, io non la guardo, sicuramente non neanche mi ascolterà lui a me. Salvatore Grillo! Salvatore, vedi un po' questo com'è la situazione. A Parroggio, non volevo far vedere un po' com'è la situazione, vediamo un po' se abbiamo appena un controllo sensazionale più sicurezza. Dell'altro cambio, però questo forse modula meglio così, guarda un po' a vedere, positivo, no, hola, no, senti questo che no, vediamo un po' così, un pochettino amplificato appena, così, non è molto la valle, ecco così, vero, sabato, positivo, no, lo sapere se ci va bene. Con questo microfono o se veramente se fa meglio con l'altro. L'altro mi sa è molto, molto più pulito. Positivo, anche questo arriva a 20 watt, c'è anche questo. Quasi 20 watt, anche questo apparato qua. E positivo, dentro anch'io che ho detto davvero importante, tanta gente. Lo so, lo so, anch'io questo qua. Lo so. Dimmi una cosa, aspetta un attimo, se ne tocco, questo microfono amplificato dell'M300 che a me mi pare che mi piace tutti. L'hai messo là, là, mi sa che la radio la fa molto, molto migliore. Oh, Salvatore, guarda questa qua invece, la modulazione. Ma io lo dico che è molto migliore questa qua di quella amplificata, che microfono amplificata a me. Beh, così sono normale, mi sa che è molto più bella la radio così, ma molto più bella. Positivo, positivo, infatti io faccio pure un mio microfono, modulo con questo e mi trovo alla grande. Positivo, positivo. Luca Rieci, sì. Luca. Lucariello. Vabbè, non c'è, non c'è, non c'è. Come segnale sarà molto più bassa questa, però va bene lo stesso. No, questa c'è, come modulazione va troppo bene questa. Va più che bene. Come l'altra, preciso come l'altra. K positivo, però ci sono 20 in meno qua. 20, ne sta segnando 20 in meno. K Roger. Non cambia, non fa nulla, infatti volevo vedere un coso dove, con Luca per dire. No, però vedo arrivano per 30, non penso che questa sia questa non per 10 per arrivare per 30, una cosa del genere, no, per non per 10. Gaffa, gaffa, ma questo è un con questo microfono che è dell'ARA 48 normale, esce meglio di tutti gli altri microfoni, infatti io questa radio ce l'avevo con quel microfono che stavo modulando prima, ma mi trovo meglio con questo qua, mi sembra una radio molto più pulita e più un po' più bella come radio, dai. No, sto facendo benissimo, bene, bene, arrivi benissimo da casa, arrivi alla grande, stavolta, arrivi alla grande, no, me ne chiamo questi posti, lo dirò. Ehi, ehi, ho capito, ho capito. Va bene come fosse, va benissimo. Da farroggero, da farroggero. Ma sta fattore l'agricolo, sei ancora travagliente. No, no, mamma mia, ti ho detto, parla calmo, non gridare, se no ti fesco i dischi. Con che palacchino stai modulando? Ma l'ARA 48 che ti ho dato io è mascolo, ha la voce grossa, mascolo, come mai tu lo fai uscire così queste palacchine? Come mai però? Se mi viene la voce, prendi e metterlo sotto la ruota del trattore. Aspetta un attimino, Salvatore, sta andando a cenare. Parroggio, dai, ce la riascoltiamo, io fra un po' per ritiro, Salvatore, dai. Fatti buona cena, ce la riascoltiamo domani, dai, tutta domani. Che poi tanto mi rimango altri 10 minuti e me ne vado via anche io, dai. Ciao, ciao. Oh, Salvatore l'agricolo, ascolta mamma, basta la calamita, passata la calamita. 1-3, 1-3. Oh, non ho capito come mai questo apparecchio non esce come quando te l'ho dato io, come mai esce così? Ma so che è la prima di vita. Questa è la 15.000. Se sotto la 15.000 qua è un casotto, allora è un casotto, è un casotto, sto finendo, per quello sarà positivo, positivo, là. Però io quello va bene, l'apparato va troppo bene da staccare tutto qua io.